viaggia per il mondo da pellegrino guidato dal vento come meta. Nel destino cammina instancabilmente, scappando dalla società. Lasciando un messaggio di libertà, sapendo che non siamo.